Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. In questa storia che vi racconto non ha importanza il nome di un soggetto detto Ciccio che entra nell'operazione Black Hawks condotta pochi giorni fa dalla procura della Guardia di Finanza di Milano guidata dal colonnello Vincenzo Tomei. Ciccio, nato in provincia di Varese e indagato nella stessa Varese nel 2007 per ricettazione, riciclaggio e usura, entra nell'indagine parecchie volte. È parte lesa e la sua storia drammatica ad un certo punto viene ricordata con timore da due arrestati il 27 agosto 2008. Anche quel giorno la sala ascolto registra dialoghi e i due si raccontano che Ciccio da due anni prende per il culo, scusate la volgarità ma è così, la cosca Facchi Neri di Cittanova, Reggio Calabria, ma ormai milanese di adozione e attività criminali e uno degli arrestati oltretutto prende in giro. Proprio quest'ultimo è sicuro che prima o poi si sarebbero vendicati con Ciccio e ricordano un episodio del 2001 da brivido. Ecco il racconto di quel pestaggio a sangue. L'hanno scassato. Aveva paura di avergli spaccato qualcosa perché gli usciva il sangue dal naso, dalla bocca, da un orecchio. E quell'altro diceva no, quell'altro pezzo di merda diceva no minchia, gli hanno dato la tovaglia da asciugarsi e lui c'aveva al bar quelle tovaglie di Versace. No, sulle tovaglie di Versace il sangue, portalo fuori. Neanche al bagno l'hanno fatto andare. L'ha portato fuori, l'hanno riportato fuori, l'hanno lavato con una bottiglia. Lascia stare se ne ha buscate il Ciccio. Avevano paura che moriva perché gli è venuta fuori una crisi praticamente isterica. Non lo so, hanno detto che tremava, saltava, poi è caduto per terra e poi è iniziato a perdere sangue. Dopo che è caduto per terra ha detto che gli hanno dato un cazzotto su in fronte e un altro l'ha preso contro il muro, fa minchia non si è mosso, ha detto, poi gli ha tirato un altro calcio e ha iniziato a perdere sangue, non diceva neanche a e ha iniziato a tremare ed è andato a terra. Credo che abbiate colto la morale da brivido, si può massacrare di botte un uomo ma per carità di Dio asciugare il suo sangue sulle tovaglie di Versace proprio no. Buona vita e a domani.